Ascolta e indica la parola o le parole che senti. 1. Odio il traffico. 2. L'addetto al laboratorio è in ferie. 3. Indosso volentieri abiti di lana. 4. L'adito è il luogo più interno e sacro di un tempio. 5. Luciano cadde. 6. Non si è presentato all'audizione. 7. Stanno preparando i documenti per l'adozione. 8. Le tasse sono in proporzione al reddito.